Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort, mi ha detto che il caso era grave. Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, ma immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E allora dica che queste persone sono essenziali per la nostra società. Lo dica! No, sono essenziali perché le società miste sono le società vincenti. Ma che cazzo sta dicendo? Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Lo sai, Parenzo, che sono un po' preoccupato, perché ho letto oggi una frase di Salvini, sì, lo so, partiamo sempre da Salvini in questi giorni, che bisogna fare, le dichiarazioni politiche sono queste, questo è quello che offre il mercato della politica, delle dichiarazioni, delle follie, delle frasi fatte, eccetera, eccetera. Allora, sono abbastanza preoccupato per un motivo molto semplice. Ti ricordi ieri che cosa ho detto sul coso? Che cosa ho detto sulla vicenda dell'insegnamento del sesso nelle scuole? Cioè, ho detto... No, no, io ho detto che sono fortemente contrario a qualsiasi insegnamento sessuale nelle scuole, che si tratti di questioni gay, che si tratti di sesso in generale, perché ci pensano i genitori quando uno è minore e comunque poi c'è la vita davanti, cioè il maestro, il professore, che cazzo ti può spiegare? Nulla, ogni cosa verrebbe in qualche modo, no, interpretata male, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se un professore, un maestro, se un professore, un maestro prova a parlare di sesso con mia figlia di 9 anni, di 10 anni, ma anche di 11 e di 12, vado lì e gli faccio un mazzo così. Vabbè, insomma, leggo oggi i resoconti di un comizio nel Bergamasco del leader della Lega Salvini, il quale dice queste parole. Sono abbastanza preoccupato di questo, perché o ci ha sentito ieri sera, oppure abbiamo la stessa forma mentis. Che dice? No, questo è sicuro, certo. No, ma magari, magari ci ha ascoltato ieri sera. Comunque, No, è che ormai ragioni con la ruspa nel cervello. Pure ma tu, comunque, se una maestra parla di sesso a mia figlia... Questo dice Salvini. Vado a scuola e le faccio una faccia così. Così ha detto. Ma guarda che impressionante, mi sono... Preoccupati. Cioè, è una roba da andare dall'esorcista, secondo me, non no, Salvini? Io mi preoccuperei, fossi in te. Ma no, io non mi sono affatto preoccupato. Io no, se no. Dicessi una cosa simile a quella di Salvini, ma mi... No, mi assolutamente, perché? Perché a io, me non io può mi, capitare. Io mi preoccuperei se dicessi qualcosa simile, che ne so, a Schettino, il quale, per esempio, viene accolto da un pubblico osannante durante la presentazione del suo libro, non solo. Ma lui non ha ruoli di potenziale lui governo. Lui e quella che ha scritto insieme, quella con cui ha scritto il libro, dicono che no, il libro che hanno fatto è dedicato alle vittime. Cioè, tu ti rendi conto del paradosso solo italiano, no? Quello scrive un libro e poi la dedica è alle vittime della Concordia. È vero che lui si dice innocente, ma insomma chi doveva farla, scusa, allo scoglio. Ma stai zitto, non dire niente, non è che lo dedichi alle vittime della Concordia. Ma hai preso, certo, non so quello. Quanti anni in primo grado, è muto almeno, non lo dedicare a quelli, no? Almeno basta con questa ipocrisia, no? Rondolino, uomo di sinistra, molto bravo, stavolta molto bravo, Fabrizio Rondolino dice che i professori che manifestano in piazza, i signori professori che manifestano in piazza, vanno sgomberati, sgomberati a manganellate dalla polizia, perché non possono rompere i coglioni al centro storico di Roma e bloccare una città. Devo dire la verità, ho visto e sentito soprattutto delle voci oggi, a me non me ne frega nulla di questa vicenda della riforma della scuola, ma proprio zero, zero assoluto, zero assoluto. per me la scuola pubblica andrebbe bombardata, come minimo, cioè nel senso di rifatta totalmente. Proprio qui è il preside che decide sui professori, che ha più poteri, insomma, roba all'acqua di rose, dai, cazzate che non verranno mai applicate. Il merito, figo, se ne parla da 30 anni, minchiate. Però è lo spunto, come dire, la scusa per andare in piazza, per rompere le balle, per protestare contro il governo, tutta una roba politica. Ma sentite qualche voce di gente avvelenata, satanata, professori, non so chi, che scendono in piazza con una rabbia pazzesca nei confronti di Renzi. Sentite che voce, pure il senatore Lamineo, che si è astenuto, ma insomma dovrebbe essere anche aggredito. Mineo, verbalmente semi aggredito. Il PD piangerà, sono morti. E che è successo? E che t'hanno fatto a scuola? Il posto di lavoro lo conservi, non ti preoccupare, è inamovibile il posto di lavoro. Che cazzo mettete la polizia? E questa è la democrazia che imponete? E ci passare al Senato? Che cazzo di Repubblica di quest'altro dice, che cazzo di Repubblica di merda se mettete la polizia? E te credo, che deve fare la polizia? Deve proteggere le istituzioni. Che devono fare la polizia in piazza? Lasciamo strada libera. L'avrebbero ammazzato il senatore Mineo, che peraltro in teoria dovrebbe essere un po' più dalla parte di questi, no? Beh sì, si è astenuto. In teoria, certo. In teoria. Per carità di Dio, per carità. Siamo qui, 800 24 00 24. Andiamo. Ah sì, Salvini contro tutti. Non so in quale trasmissione. Sulla vicenda della tortura, dei poliziotti, del fatto che i poliziotti possono essere liberi di manganellare i delinquenti, che se poi cadono sono cazzi loro. Prima contro il signor da Milano, poi contro un deputato del Partito Democratico. E gli italiani che votano la Lega, penso che posso parlare anche da Milano. Da vent'anni che faccio politica, perché mi votano. Guardi Salvini, lei ha preso il 14% della metà degli elettori, quindi l'ha votata il 7%, il 93% degli italiani, perfetto, non la votano. Quindi bene, se sono intelligenti quelli che la votano, votano, sono lei anche intelligenti simpatico. L'altro 93%, bravo, che di lei non vuole sentir parlare. Questo così. Democraticone. Democraticone è la legge dei numeri e la democrazia. Allora, scusate, bravo, un bacione. Scusate, si può parlare da Milano? Un bacione, sentiamo, dica Fiano. Abuso di potere per avere informazioni. Ora, se io alzo la voce con uno che ha rapito un bambino e questo dice che io ho abusato del mio potere per sapere dove ha messo questo bambino, sono un torturatore. Alzare la voce scherzando. Non è violenza. Ma siamo Matteo, su scherzi a parte. Ogni tanto ma io qualcosa. Ti prendo a schiaffi. Io a te rapitore, Matteo, ti prendo a schiaffi. Felpe, a te spacciatore, ti prendo testo a schiaffi di per sapere capisco dove. Capisco che hai dato solo pochi esami all'università. Ma oggi la hai detto, non leggi qualche testo di legge, alzare la voce non è violenza. Ricordiamo da ieri sera alla Zanzara l'intervento di Gianluca Bonanno, caro Parenzo, l'intervento di Gianluca Bonanno, quando ha detto che il fascismo ha portato dei benefici in Africa. Beh, amici miei, denuncialo per l'apologia di fascismo. Dai, denuncialo. Perché no, non lo denunci? Ormai è talmente sputtanato lui. Perché non lo denunci? Potrebbe essere denunciato, ha detto che ha il fascismo. Ha detto cose ben più gravi di questa. Ah, questa, ma senti questa roba qua, senti. Questa è roba all'acqua di rose in confronto. Le opere pubbliche che hanno adesso in Africa ancora risalgono, per dire quello che ha fatto l'Italia, risalgono molto spesso all'epoca del fascismo. Ecco, il fascismo gli ha portato comunque dei benefici anche, non è che sono andati là solo a colonizzare. Sicuramente gli ha portato più civiltà che quello che hanno combinato dopo, questo è sicuro. Stop it! senatore Centinaio della Lega Nord dice che sulla riforma della scuola, sempre, che la vasellina, serve la vasellina perché ce lo stanno mettendo dietro. Ora va bene tutto, ma guardate che non c'è nulla in questa roba qui, cioè, non, cioè la gente non sa nemmeno la riforma della scuola. Ma raga, ma di che parliamo? Questa è la vaselina della buona scuola, mettetela a bilancio dello Stato italiano e datelo a ogni professore, questo è quello che subiranno gli insegnanti. Ma magari ci fossero i presi dittatori delle scuole. Centinaio che parla di buona scuola, lui, Centinaio. Vabbè, perché qual è il problema? Non ho capito. Possono parlare solo quelli di sinistra di buona scuola? No, non ho capito. Anzi, per carità, ma insomma, detto da un Centinaio, ma perché, che parla di buona scuola, fa venire da ridere, no? Ma perché? Beh, scusa, non ho capito. Qual è il problema? Ridere, a proposito di animalisti, rompono i coglioni a una bellissima signora che pesca con la fiocina, che si chiama Valentin Thomas. Una sexy pescatrice con la fiocina, la quale viene insultata su Facebook, assassina, ha 28 anni, di origini franco-canadese, ragazzi, una gnocca da paura, che fa un altro mestiere però, non è che fa la pescatrice con la fiocina, fa un altro mestiere, e insomma pesca, fa delle foto, ha messo delle foto su Facebook, è stata massacrata, assassina, di tutto di più. Solamente perché pesca con la fiocina. Pesca con la fiocina. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Ancora a casa, Simo. Allora ragazzi, un altro esempio del perché i soldi pubblici alla politica vanno cancellati definitivamente sotto tutte le forme possibili e immaginabili, e i politici devono venire a chiedere agli elettori bussando alla porta, toc toc toc, se non si è sentito forte lo faccio risentire, toc toc, ci date per favore i soldi per fare politica? Sì, no, altrimenti se li procurano in un altro modo, legale. Viene dalla Calabria, dalla regione Calabria. Regione Calabria, dove c'erano dei consiglieri regionali che sono stati arrestati, tre sono domiciliari, un altro è un senatore del nuovo centrodestra, per cui è stato chiesto l'arresto essendo in Senato, pagavano dei gratta e vinci, dei corsi di lap dance, oltre che ristoranti, cose evidentemente, almeno secondo le accuse, non autorizzate. Allora, tra l'altro c'è il caso di questo senatore del nuovo centrodestra che si chiama Bilardi, il quale è accusato di peculato, truffa, è stato chiesto l'arresto di un senatore, il quale è accusato, tra le altre cose, gli hanno sequestrato pure circa 400.000 euro, 357.000 euro, lo hanno accusato di avere comprato un televisore con i soldi nostri. Questo televisore, a un certo punto, quando c'è stato l'interrogatorio, lui ha chiamato l'autista per far riportare indietro il televisore. Vediamo se ci spiega sta cosa. Chiamiamolo un po'? Chiamatelo, dai, forza. Chi è? Sì, Bilardi? Chi è? Amico mio, sono Cruciani, ciao, come stai? Dimmi. No, volevo sapere una cosa, ma sta storia del televisore è vera o no? È curiosa. Ma che non ci rompono i coglioni, guarda. No, no, per carità. Che non ci rompono i coglioni. Ma chi perché dice? Perché sono tutta una massa di pezzi di merda, guarda. Chi dice? Quelli che escono, televisore, cose, voglio dire, il televisore era un televisore del gruppo. Dicono che la mia stanza era la stanza del gruppo. Il gruppo era al primo piano. Dal primo piano è salito al quinto piano, un televisore era già normale e tranquillo. Dove cazzo è il problema? No, ma dicono che tu hai chiamato subito l'autista per chiedere di riportare il televisore al negozio. Così si dice, amico. No, mio. non lo sto dicendo. Come c'è stata una telefonata registrata e gli inquirenti hanno filmato tutto, anche il televisore riportato, così leggo, no? Ma quando mai? Quando mai? Non è, per quanto mi riguarda, no, assolutamente. Ma scusa, ma perché hai comprato questo televisore con abbonamento a Sky? Scusami, questo grande televisore. Io con abbonamento a Sky? E sì. Quando mai? Non c'era né abbonamento a Sky, era il televisore del gruppo. Senza abbonamento a Sky, acquistato. Ma i giornali scrivono un sacco di cazzate allora? Ti sto dicendo, il televisore era nella stanza del gruppo e dalla stanza del gruppo è salito nelle stanze superiori. Ma scusa, ma che cosa, perché ti hanno sequestrato 357.000 euro? E questo lo so io, e se lo sapessi te lo direi. Che spese contestate ci sono a tuo carico? Le spese del gruppo, non sono le spese personali. Vabbè, insomma, questi qua chiedono l'arresto, tu capisci, no? Che uno dice... Capisco, voglio dire, ma questo qua poi in sede giudiziaria vediamo. No, ma quello non c'è dubbio, quello non c'è dubbio. In sede giudiziaria, se ora voi state già parlando di un televisore e mi state addebitando lo Sky, e non so neanche di che cosa si tratta, mi state addebitando che c'era un televisore alla regione, all'IFE, la finanza è andata, ha controllato che quel televisore corrispondeva a quella fattura e quindi il televisore era lì. Ma scusa, ma rinuncia all'immunità o no? Non ci siamo capiti. Sì. Va bene, ok, Cruciani, ci sentiamo. È una domanda. Va bene, senatore, guarda, una domanda. Ti chiedo un favore personale. Dimmi, siccome sono dall'avvocato, certo. Ci sentiamo fra 2 o 3 giorni e ti dico quello che vuoi, ok? Scusami un attimo, però c'è un altro... Sì, dimmi. No, dico, non è una domanda, cioè... così allora, guarda una cosa, io ho fatto, è da 30 anni che faccio in modo serio attività professionale medica, in modo serio il politico. Sì. E per quanto mi riguarda sono uno dei più votati perché mi vogliono bene. Sì, okay? Sì. Non avrei aspettato certamente nel 2010 per fare quelle porcherie che mi stanno addebitando. Ok? Sì. Tanto per essere... Siccome sono in un momento che sono incazzato... Incazzatissimo, non incazzato. Vabbè, è normale, no? Ma chi dice niente? Uno c'è la richiesta di arresto? È normale. Assolutamente. È normale. Siccome sono incazzato per questo, sì. Ma per le cose che escono su mediaticamente, su questo, se uno volete fare un processo mediatico... No, io voglio capire una cosa. Secondo te c'è un attacco all'NCD? Siccome ci sono indagini su un sacco di esponenti, senatori... Io penso che tutte dalla mattina alla sera solo noi ci attaccano qui. Appunto, dire, c'è poi... una specie di complotto... Non capisco perché, sono cose che si riferiscono a 3 anni fa... E mi fanno, a 5 anni fa mi fanno una richiesta di arresto ai domiciliari oggi. L'evidenza è che comunque negli ultimi 3 giorni, 4 giorni Azzolini, Castiglione, io faccio dire, qualcuno dice avete più indagati che voti, più indagati che voti. Vabbè, una battuta, dai, su. Ma sti gratte vinci, la lap dance, chi sono questi qua che hanno utilizzato i soldi nostri? Perché poi alla fine sono soldi nostri per queste robe qui. Chi è? A te che cosa ti addebitano, per esempio? I caffè, a gli scontrini, le cene, che cosa? A me mi addebitano le cene. Le cene? A me mi addebitano le cene. Magari hai esagerato qualche volta, dai. Magari qualche esagerazione l'hai fatto. Qualche cena in più l'hai fatto. No, io non ho fatto né cene con Aragoste né cene con altro tipo. Ma scusami, ma perché uno deve comprare il televisore con i soldi nostri? No, aspetta un minuto. Qui stai entrando in un altro ragionamento. Qui stai entrando in un altro ragionamento. Su cosa si fa con i soldi? Parti a leggere la legge regionale e vedi se erano soldi nostri. Nostri, quelli che... Anche io mi reputo uno di voi. Parti a leggere la legge. E che soldi regionale? Mica hai comprato con i soldi tuoi il televisore? No, basta leggere la legge regionale, ti sto dicendo, cioè, poi è consentito, vediamo dice se sono soldi. È consentito, dici? Secondo me sì. Se nel merito entrano e dicono che queste cose non erano consentite, loro dicono che non erano consentite, noi diciamo che sono consentite, vabbè. Poi vediamo chi ha ragione. Ciao caro, ciao, stai bene, bello. Stai bene, ciao, stai bene. Spruzzata di ascolti. Hai sentito come combatteva? Infatti. Mamma mia, sti per pezzi di merda. Ma quei pezzi di merda. Ragazzi. Quei pezzi di merda, quando dice non ci rompano i coglioni, pezzi di merda. A chi si riferiva secondo te? Ai giornalisti, ai giudici, a chi? A chi ha scritto, a chi ha fatto ma le non lo so. Oh, ma è strano, no? Non no, ci rompo. Devo dirti che però oggi è successo anche qualcos'altro. Ah, ce la dici quegli attentati, dici? No, dico nel mondo a noi vicino. Pensa, se non ti piace la Tunisia, anche solo in Francia, per dire. Sì, ma fanno, che cazzo ci frega? No, ma infatti il nostro paese è affidato a degli statisti. No, ma che ci frega? Noi dobbiamo discutere di queste cose qua, gli attentati. Vediamo, no, un po' Luciano da Lucca. Luciano da Lucca. A quel genio con la ruspa che vuole rispedire. Ma che c'entra Salvini? Adesso tutto è riportato a Salvini. Luciano da Lucca, fammi sentire Luciano da Lucca, che forse vuole parlare sugli attentati. Stai zitto un attimo, Luciano da Lucca. Sono qui, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta, ti volevo dire, siccome già un po' che chiamavo, però. Dai, veloce, che dobbiamo chiudere, vai. Gli attentati fanno. Logicamente, diciamo, essendo più sempre numerosi, Parenzo dice di no, però qui andremo incontro, se vogliamo reagire, a una guerra civile, perché questi vengono solo per soverchiare e per farci sparire. Ma come questi chi? Non è che sono gli vabbè, ho capito, cioè, se tu hai paura dell'invasione, hai paura dell'islamismo che serve degli immigrati, e tutti intanto sono qua, se no chi ce l'ha portati qua? Vabbè, ci sentiamo dopo, dai, dopo Ger, dai. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Se ti piace il Gastronauta e ti piace anche il panettone, non perderti la possibilità di vivere da vicino la diretta del mio programma domenica 28 giugno a mezzogiorno. Saremo proprio qui, nell'auditorium del gruppo 24 ore, durante la 2 giorni dedicata al panettone tutto l'anno, e ci divertiremo a festeggiare insieme l'arrivo dell'estate con il dolce simbolo di Milano. Prenota il tuo posto sul sito radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Ogni giorno, al mattino quando ti svegli, alla sera quando vai a dormire, io non sono nulla, questo tu sei nulla, hai capito? Nulla. Siamo qui, 800 24 00 24, e meno male che forse il Vaticano si sta mettendo in moto e sta dicendo, in sostanza, poi al di là delle questioni diplomatiche, che nelle apparizioni a Međugorje non c'è nulla di soprannaturale, e forse impedirà alle 6 veggenti di Međugorje di partecipare ai raduni, di imporrà forse ai vescovi addirittura di non farli invitare né accoglierli. Le veggenti di Međugorje. Ma chi può credere alle veggenti di Međugorje? Beh, guarda lì, povero Brosio, è una mazzata per il povero Brosio. Ma chi? Sì, non si sente. Donato da Varese, dai, Donato da Varese. Pronto? Non c'è niente da fare, dai. Donato Varese, dai. Pronto, salve. Sì. Volevo parlare un attimo con Renzi, come si chiama? Parenzola, come cazzo si chiama? Sì, scusami, Donato, dimmi, con chi vuoi parlare? Con Parenzo, voglio parlare con Parenzo. Sì, è qui. Se si sente, è qui. Se ci degna, è qui. Voglio sapere. Sono qua, tesoro, mi sentite ora? Allora, io voglio sapere, ieri, 2 giorni fa, si è ammazzata una ragazza perché con 2 figli gli avevano staccato la corrente, la luce, altre cose, con uno sfratto addosso. Io voglio sapere in Italia cosa sta accadendo. Voglio sapere poi un'altra cosa, per quale motivo tu devi sempre giustificare, ma tu su ci... Guarda. Dimmi, guarda. Donato, che c'hai, amico mio, dimmi, no, che c'è? No, voglio... Allora, io siccome che sono molto attento, vorrei sapere per quale motivo in questa Italia... Cosa c'entro io con quelle che ci hanno staccato? C'entri un cazzo! C'entro? Allora io faccio Donato, un discorso... Stai zitto, se no si sovrappone, dai, Donato, dai! Io vorrei fare un discorso che purtroppo piace a pochi, specialmente quelli che lavorano nel mediatico. Dai, Donato. L'Italia sta per essere islamizzata. Io ve lo dico, vi porto le prove, l'Italia sta bene, adesso quella troia, come si chiama? Rosaria Crocetta. Ma che c'entra, poveraccia, Rosaria Crocetta, dai. Ma stacco, perché tempo fa, una settimana fa, ha detto... Ma c'è stato un giornale marocchino che ha detto, allora questi omosessuali li ammazziamo, non li bruciamo vivo, non li bruciamo vivo. Beh. E Crocetta ha detto, mi bruciano vivo pure a me. Ma se l'avesse detto uno della Lega, questo maiale, cosa avrebbe risposto? Ma che c'entra, scusami, Donato? C'entra, ma analizza! Noi ormai siamo divenuti schiavi. Ma scusa, ma che c'entra adesso Crocetta? Perché Crocetta è un islamico. Ma non Crocetta è un islamico, non è islamico Crocetta. Crocetta quando parla dell'Islam lo difende. Tra un cristiano e l'Islam, Crocetta butterebbe dalla torre, preferibilmente più. Vabbè, maestro Donato, adesso che c'entra il povero Crocetta, che è il presidente della Regione Sicilia? Parla di cose concrete, serie, dimmi che cosa. Cioè, io non ho capito perché sei intervenuto, Donato, oggi. Allora, dimmi. Io vorrei. No, perché no? Io perché allora, ha visto cosa è successo lì in fa, come si chiama, è successo lì in Tunisia, no? Sì, ti è partita la brocca, allora, ancora allora oggi ti è partita allora la brocca. Come cazzo devo dirvi che noi ci stanno islamizzando? Sì. Noi non possiamo anche a questa testa di cazzo che hai a fianco, perché attacca la Lega? Digli a questa testa di cazzo che ha a fianco. Bene. Coloro che potranno difenderlo un giorno dalle ferrate violenze dell'Islam, ma sarà probabilmente la Lega. Ma e non sarà l'Islam stesso che lui difende. Lei non si preoccupi, perché tanto non avrà davanti a sé lunga vita. Allora, tu ti vuoi mettere in testa che noi ci stanno islamizzando? Sì, certo. Allora, tu sai che l'Africa è piena di porci, di animali che chiamano, stuprano, ammazzano, uccidono. Ha telefonato ieri una grandissima tutto testa di cazzo. Ma chi ha chiamato? Una chi? Grandissima tutto testa ma di cazzo. Ma chi? Stai calmo, chi? Ma non un napoletano, sono un napoletano, vergogna, mi posso napoletano, sono un... Ma è il caldo che fa venire fuori gli spostati, il caldo. Ha detto che la moglie c'è multiculturalismo, sì, che ha sposato, non fa altro che arricchirci. Ma arricchirci in che cazzo, che l'Italia non è seconda a nessuno? Calma, nell'arte, in tutto, nel cinema, sono i comunisti, in tutto. Ma stai calmo, Donato, sennò ti prende un attacco epilettico, devi stare calmo. No, a me non mi prendo attacco, io vorrei avere, guarda, fai una bella cosa. Dimmi, dammi Donato. Soltanto un mezz'ora alla settimana il posto di questo come si chiama, sì, di questo deficiente che è a fianco lì, che non fa altro che giustificare l'ingiustificabile, giustificare l'orrendo. Voglio sapere se viene con me lui al funerale di quella povera ragazza. Ma che quale? È morta a Bologna. Chi viene con me a funerale di quella povera ragazza che è morta a Bologna? Sì. E che c'entra la ragazza che è morta a Bologna? Scusa, Donato. Perché una ragazza che si ammazza perché gli hanno staccato il gas, che si uccide, allora, perché nessuno la pensa, vuol dire che noi come paese siamo falliti. Io non ho mai visto uno zingaro che si è impiccato perché gli hanno staccato la corrente. Io non ne ho visto uno. Ma ogni giorno in Italia la gente si ammazza. Vabbè, adesso non esageriamo, Donato. Come? Due omicidi al giorno. Senti, Donato, ma io volevo sapere la tua aulica opinione su quello che ha deciso oggi la Corte Costituzionale in America, la Corte Suprema, che ha legalizzato sostanzialmente in tutti gli stati il matrimonio homosex. Non mi parlare di quella gente malata, ma lascia, l'omosessualità è una cosa malata, è una cosa che non c'entra un cazzo con la mascolinità. Sono distorsioni mentali. L'omosessualità deve vivere, sì. Nessuno dice, ognuno fa i cazzi che vuole, ma star lì a sposare le persone gay, tutte ste cazzate, ma non riesco a capire. Non perché sono malati, non ho capito, ma stai dicendo che sono malati e disturbati, certo, ma ti rendi conto? No, l'omosessuale è malato. Ma non ti puoi permettere di dire cose del genere, dai. Gli omosessuali sono malati, ma sai quanti artisti omosessuali che abbiamo in Italia che purtroppo si nascondono, purtroppo sono degli omosessuali. E beh, allora? Ma ti sto dicendo che essere omosessuale è una cosa brutta, negativa. È una malattia, Donato, non si può dire che non sia una malattia. Donato, è una malattia. Tu sei sposato? Luxuria. Ma guarda Luxuria che faccia, che cazzo ci fa la Luxuria? Noi tra una gallina e Luxuria ci siamo comiti l'altra una gallina. Ma scusami Donato, ma tu hai una famiglia, hai una moglie, una figlia, cose del genere? Io sono una famiglia, tutti quanti. Cioè, ma quando dici queste cose a casa, come rispondono, come reagiscono? Questo è il punto. Dico soltanto che gli omosessuali sono purtroppo dei malati. Gente malata. Vabbè. Sessualmente sono malati. Perché io sono convinto che il sedere non deve servire certamente per essere eiaculato. Non è una cosa contro loro, no, contro la tua, non esiste. A che deve servire il sedere? Non ho capito. Non penso che il deretano sia stato deputato per essere inculato. Sì. Non, è una cosa che non riesco a capire. Il deretano è nato per defecare. Per scaturire deiezioni, non c'entra un cazzo. Vabbè, ciao Donato, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, Paola da Napoli, vai Paola. Buonasera. Sì, ciao Paolo, dimmi. Ciao, Crociani, ti è successa una cosa molto brutta e purtroppo anche tu sei parte di questa di queste cose che ci succedono a noi. Che insomma, voi chi? Persone, voi chi? Facendo parlare persone come questa, noi. Ma voi chi, noi. Paola? Chi? Ma qui chiama veramente chiunque in questa trasmissione. Ho fatto parlare questa persona che disse che il mio stato, il mio modo di vivere è una malattia. Noi, ma tu che tu è, Paola, tu che sei? Transessuale, che sei? Sì. Perché piangi, tesoro? Che è successo? Perché sei offesa. Aspetta, aspetta, che è successo? Perché piangi, amore? Siamo stati aggrediti, ho i cavi d'acciaio, le ferite sono compatibili a cavi d'acciaio, hanno passato con la macchina in corsa mentre eravamo sulla sfida della strada. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, sfogati se vuoi, sfogati, sfogati pure, sfogati, tranquilla, sfogati, sfogati amore, sfogati. Colpa tu fai parlare alla gente come questa. Ma non è colpa mia, non dire stronzate, io ti adoro, amica mia, ti adoro, io sono... Tu sono fatto parlare a questa persona. Io sono amico dei transessuali, sono, siete i miei fratelli, siete miei, io vi adoro. Tu hai fatto parlare a questo. Vabbè, adesso non esagerare, dai, ho fatto parlare, è intervenuto. Ma ho fatto parlare a questa persona, hanno passato con la macchina in corsa, io ho telefonato anche... Ma quando è successa questa aggressione? Passato ma adesso, perché piangi adesso? Scusa, qualche mese fa, che ti hanno fatto? Ho dovuto fare anche un intervento a chirurgia plastico perché un dottore mi conosce, di fatto ti è ricostituito perché il mento, il mio braccio, hanno passato con la macchina in corsa gridando ricchioni di merda, e hanno sbattuto questi cavi che poi sono stati compatibili a ferita da cavo d'acciaio. Però scusami Paolo, abbi pazienza. No, però ha ragione, non può essere normale che uno può dire. Stai tranquillo, ma non dire banalità. No, vabbè, allora vai. Allora, Paola, io voglio dire una cosa. Banalità, ma quali banalità? Ti sta chiamando una persona in lacrime, dici banalità. Voglio chiudere perché tu hai fatto parlare quella persona. Va bene, vabbè, ho fatto parlare quella. Una malata, addio. Addio che? Paola. Aspetta, aspetta, pubblicità, mo la richiamiamo, eh. Peppe, rotto il cazzo, Peppe, con sti frodi. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Vabbè ragazzi, andiamo a Foggia, dai. Daniele 800240024. Io sono convinto che il transessuale di prima non è vero, è un transessuale finto, però la voce ce l'aveva da trans. Però ha detto una cosa vera, cioè la parola può ferire. Quindi io sono, perché tu credi veramente che, tu credi veramente che piangesse perché Donato da Varese è intervenuto questo dicendo che i gay sono malati? Non lo so, però io dai, credo su, provando a essere, come dire, apparentemente impopolare, cosa che invece. Ma non ha detto nulla. No, provando a essere, come dire, scontato e politicamente corretto, come mi si dipinge, io ancora sono tra quei poveri idioti, sì, che pensano che se uno offende, sì, usa parole razziste, uno si mette a piangere, uno si mette a piangere, debba essere punito. Sì, vabbè. Puniamo tutto. Non è così banale. Alcune cose vanno iscritte solamente banale nel registro della cretinaggine. Se basta. Uno mi offende, gli tiro una zuccata, vabbè, in testa, ma se me lo trovo. No, secondo me no. L'offesa, la zuccata in testa, vai in carcere. Bene, io però se uno mi dice una, beh, capita qualche volta, lo posso insultare anch'io, cioè rispondo all'insulto. E rispondi, benissimo. Dopodiché, se uno mi fa un insulto razzista, io fino a quando c'è una legge, è che tu sì, lo porto in tribunale, perché c'è una legge che lo prevede. E allora? No? E allora? Questo sarà e allora? Anche banale. No, ma allora? Allora? Allora, questo per dire che siccome le parole generano violenza o sono violenza. Ma me la richiamate questa transessuale o no, Paolo? Violente. Questa ha ragione, vera o non vera che sia, adesso questo non vabbè lo sappiamo. Questo. Daniele da Foggia, vai. Daniele. Nel merito ha ragione. Ciao, sì, ciao, volevo intervenire cambiando discorso rispetto al transessuale, volevo parlare dell'ISIS. Sì. Volevo dire che secondo me quelli dell'ISIS sono quattro coglioni ed è un problema sostanzialmente voluto dalla comunità internazionale, che se veramente volessero gli intelligence internazionali potrebbero essere facilmente eliminati, però non lo fanno. Con le tecnologie che abbiamo oggi, tutti quanti disponiamo di un Google Earth dove è facilissimo raggiungere e fotografare qualsiasi posto della Terra, perché cioè, secondo te sono in qualche modo si lascia vivere l'ISIS per varie ragioni? Sì, ci possono essere diverse ragioni, tipo quella del commercio del petrolio in cambio di armi. Ed è un problema secondo me che vuole la comunità internazionale. Vabbè, Daniele, grazie. Silvano, provincia di Bergamo, vai. Sì, pronto, buonasera. Dimmi, Silvano. Volevo fare un complimento a Parenzo. Quando Mauro da Mantova dice che è un coglione. Sì. Sì. No, ecco, secondo me gli fa un complimento. Anche secondo adesso... me. Parenzo, taci, vieni a dare la zuccata a me. Perché non vieni a darmi? Fatti dare il mio numero di telefono. Ve e vieni a darmi una molto, zuccata. Molto volentieri. Ma non ho tempo. Vieni che ti aspetto. Io volevo dire, se non la smetti ogni volta della Lega di Salvini, ti troverai veramente qualcuno con la russa. Lo aspetto, guarda, ho una vita talmente bella e piena che non ho tempo di confrontarmi con gli idioti. Questa brutto è la mia testa di qui. Ma che è successo? Silvano, non ho capito che è successo di concreto tra voi due. Che è successo? Non è successo niente. Allora, lui deve smettere ogni volta a parlare della Lega di Salvini. No, veramente la uno. Ma perché non si può parlare? Molto non ho capito. Più serio di quello ma che perché non si può rosso. Ma perché non si bevuto? Perché non si può criticare? Non ho capito a bene. A Bergamo, no, lo so. Tutte le sere difende i Rolli, i Zingari, difende tutte le categorie indifendibili, no? No, ecco, difendo allora, anche gli idioti come lei, guardi. Difendendo i deboli, difendo anche lei che è notoriamente un idiota. Comunque, piantala perché qualche giorno ti trovi veramente qualcuno con la rossa. Sono quasi. Come vabbè, abbiamo tanto Parenzo, no? Tanto Parenzo si sente. Si sente e non si sente. Lascia perdere le zuccate. Paola, come? Ecco di nuovo. Paola, che t'ho fatto? Non ho capito. Neanche creduto. Vai su Corriere del Mezzogiorno adesso e vedi l'articolo su di me, quello che ti hanno fatto. Ma non sei vera, sei una finta, stai fingendo, non sto è vero. Ma siamo state aggredite con tagli nel nostro corpo. Ma quando? Ad aprile. Ma adesso che c'è? Scusa, oggi leggi l'articolo. Vabbè, con i cavi d'acciaio, d'accordo, ma io che t'ho fatto? Non ho capito, che t'ho fatto io? Facendo parlare queste persone, non piangevo per quella persona. E per che cosa? Piangevo per la vile aggressione di questo stato vittima. Ma non ho capito, ma aprile è successo ad aprile. Tu sapendo che io dovevo intervenire, fate intervenire quella persona dandomi del malato. Ma di che stai parlando? Dai, su, sapendo di chi trattava, perché io ho telefonato prima, molti mesi prima, quando mi è successo l'incidente. Ma scusa, ma io che c'entro con l'incidente che ti hanno fatto? Ma ti pare che io sono a favore dell'aggressione ai trans? Ma di che parli? Dai, su. Facendo parlare persone come quella. Oddio. Io telefonai semplicemente per dire della vile aggressione che ho subito. Io ho subito Silvia, che anche lei, anche se stava dietro a me, non l'hai preso tutto la ho capito, ma che fai tu? Che lei fai? È stata colpita solo vabbè, al gomito. Vabbè, d'accordo, ma tu che fai? Io ho tumento sulla spalla. Ma tu che fai, la prostituta, Paola? Sì. Sì, male, perché ti dà fastidio? A me lo dici. Ma, ti dà fastidio? Ma a me lo dici, dà fastidio? Io non telefonai per ascoltare quella persona, telefonai per dire quello che c'era successo. Ma ci vuoi parlare con questa persona? Ci vuoi parlare? No. No, ci vuoi parlare? Non voglio parlare assolutamente con quella persona. Allora, Donato, pentiti di quello che hai detto a Paola. Che lei hai detto che è malata. Donato, pentiti. Ah, Paola. Pentiti con Paola, pentiti. Vergognati. No, ma non mi devo pentire niente. Hai detto no, a me qualsiasi persona abbia fatto del male a questa persona, a me dispiace moltissimo. Ma io mi hanno fatto del male perché esistono persone come te. Malati. Mi hanno fatto del male perché esistono persone come te. Ma non ti preoccupare, io ti farò mai del male di fronte degli omosessuali che hanno diritto come te. Dico soltanto che sei una povera disgraziata malata di antisesso, il sesso non è normale. Ma che c'entra? Della tua famiglia, non rivolgere a me in queste parole. Ha ragione Paola, Donato, ha ragione Paola. Ma io non le sto dicendo che è una ladra, una farabutta, una figlia di puttana. Io sto dicendo che... Ma capito, questa batte... Fermo. Che è andata male. L'uomo è l'uomo, donna è donna. Beh. Chi è ibrido purtroppo non è di qua e di là, sono malati. La parola ibrido è una cosa ibrida che non sa un cazzo dove cazzo è sto ibrido. Se io non sono né questo né quell'altro. Vabbè, sono credo, uno si può anche offendere quando dici cose del genere, come dice Parenzo. No, un omosessuale, se si vuole offendere, lo dovrebbe fare. Cioè, per te un trans come un figlio di puttana. Vabbè, stai zitto un attimo. Una come Paola, che è un trans e che batte per strada, si chiama Paola da Napoli, che dice se sta aggredita. Non dovrebbe battere per strada. Ma perché non dovrebbe battere? Paola, rispondi. Paola, rispondi. Sì, ma perché ci sono persone che ci adorano, che ci cercano, ci sono uomini sposati che vengono da noi. Beh, è questo che questa persona non può capire. Questo è un pezzo di verità, di Radio Verità, fantastico. Sì. Ci sono persone, uomini che da noi trovano conforto. Capito, Donato, pure capito? Tu vai a trans, pure tu vai a trans, Donato, pure io adesso stanotte per il primo caso io vado a mettere nel culo. Ma no, fermo, zitto, non dire queste cose. Non dire queste cose. Io voglio dire una cosa, Donato, ti ha spiegato bene Paola che lei serve ad alcune categorie di uomini. Categorie di uomini con delle distorsioni mentali, perché un uomo che va a mettere ho capito. Allora, ma si è messa a piangere adesso, è disperata per quello che hai detto. Ma non dovrebbe essere disperata per uno che la vuole curare, con uno che gli vuole bene, la vuole formare, deve disperare per quelle che glielo mettono dietro, perché quelle che la riducono a nulla. Vabbè, come consideri i tuoi clienti, Paola? Per un pene zitto, di 20 centimetri. No, non voglio sentire queste cose, Paola, non voglio sentire cose sessuali a quest'ora. Allora, io ti dico solo una cosa, Paola, come li consideri i tuoi clienti, te? Delle persone meravigliose che noi trova conforto, vengono uomini sposati, anche i ragazzi, tutte le persone trovano in noi conforto, questo. Vabbè, ma adesso amore, tesoro. Ma capite che noi trovano conforto, Bruciani, questa è la verità. Ho capito, però Paola, scusa, io ti abbraccio, io non te la puoi prendere con me, io sono tuo fratello, io sono amico di tutti i transessuali, di tutti i gay, di tutte le persone che hanno questo tipo di tendenze, non te la puoi prendere con me, io ti adoro, sono tuo fratello. Ciao Paola. Come Cruciano, sono Deri Brito da Salerno. Ma vai a cagare, vai, ciao. Ladro un'altra volta. Ciao, cretino, ciao. Sono venuto a rubare la casa del ladrone un'altra volta. Andiamo a Salvo Catania, vai. Salvo, dimmi. Sì, salve Giuliano. Dimmi. Volevo parlare sempre del discorso dei omosessuali, cultura, scuola, il discorso che avete fatto ieri sera. Cioè io mi domando, se mio figlio che frequenta il secondo liceo, istituto di un liceo classico, viene da me e mi dice: papà, lo sai, oggi il professore ha spiegato Wilde. Mi ha parlato pure di quel pazzo che era pure gay di Proust. Cosa secondo te ha fatto bene o no? Spiegami un po' in che modo l'ha spiegato? Secondo me il professore devo mettere che questi grandi personaggi erano gay oppure no? Sì, ma è impossibile ometterlo. No, ma non è. Ma non è quando uno legge il ritratto di Dorian Gray, ad esempio, di Oscar. Ma stiamo scherzando davvero? Ma voi dove cazzo vi vivete? La storia è piena. Ma uno deve leggere. Ma io ho detto un'altra. Ma hai detto una roba come al solito banale. Alessandro Magno, che era il più grande conquistatore della storia, era frocio. Aveva circondato le donne che aveva una speranza, un uomo chiamava, no, ma... il suo amore era un uomo, ma stiamo scherzando? Ragazzi, ho detto un'altra cosa. Sì, non ho detto che a parte che se uno dice a dei ragazzi che Alessandro Magno è gay, non è un problema, non è quello il punto. La questione è l'educazione sessuale nelle scuole. Allora io ripeto ancora una volta, se un maestro, una professoressa, a parte che non esiste, per fortuna non c'è nelle scuole, comincia a dire, a insegnare il sesso, la masturbazione, l'omosessualità, anche non solo ovviamente, ma anche l'omosessualità, cosa significa, cosa non significa, a 9 anni, a 10 anni, a questa età dico, fino ai 14, a scuola... Io mi incazzo, punto, basta. Ma io questo dicevo, non ho detto altro. L'educazione sessuale, il sesso, eccetera, deve essere una cosa che fanno i genitori, non è che lo possono fare i professori in classe. Ma di che parliamo? Dai. Quando si fa? No, quando. Dai, su, oppure la vita ti offre mille esempi, ti offre mille possibilità di imparare quello che vuoi. Un professore, cosa cazzo deve spiegare sul sesso? Sì, ma il professore, scusami, tu facevi un discorso, non solo, tu facevi un discorso generale fra maestri e professori. Quindi professori penso. I licei, no? Gli istituti, quindi non devono parlare. Quando si fa, quando non mi ricordo ieri sera chi parlava, chi era l'onorevole che diceva i ragazzi si suicidano perché, perché certo, si suicidano perché non hanno. Perché oggi la nostra il suicidio cultura, è una cosa, il suicidio è una cosa complessa che non si può dire è colpa delle discriminazioni. Dai. Ma assolutamente, però. Vabbè, salvo un attimo, fermo. Tutto, parlate di Wild. Vabbè, ciao. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Allora, oggi, credo, Parenzo, su Twitter, Fabrizio Rondolino, che è stato, come sapete, portavoce di D'Alema, eccetera, eccetera, ha scritto una frase sulle manifestazioni al Senato, davanti alla Camera, al Senato, non mi ricordo, insomma, al centro di Roma, dei professori, su cui mi sono incazzato moltissimo prima, hanno quasi aggredito un senatore del Partito Democratico, urlandogli delle cose incomprensibili, saranno tutti morti quelli del Partito Democratico, cose assurde. Comunque Rondolino cosa ha scritto? Perché la polizia non riempie di botte sti insegnanti e libera il centro storico di Roma? Con polemiche a seguire. Ciao Fabrizio. Buonasera, ciao a voi. Come andiamo? Ti sei pentito di questa frase o no? No, non sono pentito. Beh, intanto esiste anche il senso figurato delle frasi. Cioè? Giusto, ma non è, io dico che non, il senso non è non è ammazzarli di botte, il senso è sgombrare il centro storico di Roma. Io ieri sera quel tweet, ti racconto. Sono uscito di casa alle 9:30 per andare a una festa di compleanno, dove tra l'altro c'era anche David, quindi è vero. È testimone, diciamo, Ho impiegato, e ho sentito, sembrava di essere a Baghdad, sembrava ci fosse il giubileo, il centro di Roma completamente paralizzato. Ed era così dalle 5 del pomeriggio. Sì. Allora, questa cosa è una cosa intollerabile, punto. Non si fa. Ma erano manifestazioni autorizzate o no? Ma saranno state autorizzate, io credo di sì, ma chi le ha autorizzate evidentemente ha sbagliato, perché un conto è andare in 50 davanti al Senato con i cartelli, quello si fa in tutti i paesi civili, dietro le transenne, no? Com'è? Sì, nella piazza lì regolare, sì. Esatto. Però io non capisco le polemiche. Il centro storico di Roma. Dunque, io non te... capisco la polemica con Rondolino. Non la capisco, non proprio. Ma non capisco perché neanche Rondolino. No, non lo capisco perché per me, siccome conta molto chi dice le cose e la storia, è evidente che Rondolino è una persona pacifista. Vabbè, ma che c'entra? Stiamo parlando. No, nel merito, siccome io ho visto i commenti su Twitter e l'hanno attaccato dicendo Rondolino era un violento, allora, siccome se quelle frasi stesse le avesse detto un signore di Forza Nuova, mi sarei preoccupato. Ma per il tuo solito banale. Razzismo, come al solito, no, per il tuo razzismo, per il tuo snobismo e razzismo. Cioè, se le dice Rondolino va bene, se le dice uno di Forza Nuova non va bene. Vabbè, sei più intelligente, ti sto spiegando. È pazzesco. Sei più intelligente di quel caso. No, ma io sono. Ma io paradossalmente sono d'accordo con Rondolino. No, allora ti dico, siccome la storia delle persone conta, in bocca a un violento, che fate la violenza un'azione politica. dica, uno si spaventa. È chiaro che nelle parole di Rondolino sono parole fortissime, ma hanno un senso totalmente figurato. È un sì, sempre senso rabbia. Figurato. Invece io sono d'accordo con Rondolino, il quale tra l'altro conferma. La storia delle persone. Sì, conta la storia delle persone. Tra l'altro, conta. Tra l'altro, ma tu sei più intelligente di come ti rappresenti, quindi lo capisci anche tu. Ma tu sei, ma te, il depositario della verità. Che cosa sei diventato? Il depositario. È diventato il depositario della verità. Vabbè, ma il depositario della verità. In modo più stupido di quel che ma, sei. Ma questo lo dici tu che io mi rappresento in modo stupido. Sì, io sto dicendo una cosa di Rondolino. Chiaro. Sto dicendo di Rondolino. Cosa l'avessi detto ma, fascista, ma lascia perdere questa roba qui. Non è ma non è importante questa cosa qua. L'ha detta, punto e basta. Cioè, che me ne frega che l'ha detta Rondolino, l'ha detta di Stefano. È importante. Vabbè, è importante, d'accordo. Abbiamo archiviato questa cosa. Sì. Allora, come va sgomberata questa gente, secondo te? Io però volevo dire una cosa, perché se le risposte fossero state soltanto come dice Davide, sei un violento, vabbè, quello ci può pure stare. E in realtà ne sono arrivate ma veramente centinaia, e soltanto insulti personali e minacce fisiche. Allora, questi sono gli insegnanti italiani, cioè voi che le mie figlie oramai sono all'università, una è anche fuori, ma voi che ci avete pargoli più piccoli, sono questi gli insegnanti che noi affiliamo i nostri figli, persone che appunto minacciano fisicamente, insultano. Allora, se tu sei uno studente di questi qua, ma che idea ti fai? No, no, ma io figurati, cioè quella gente che è andata là in piazza a urlare delle cose come se ci fosse la fine della scuola pubblica, a minacciare, a circondare un senatore come se fosse un criminale, per me sono dei pazzi. Ma io che tra l'altro è uno dei pochi che dà loro retta. Sì, sì, anche se questa è una logica completamente folle, no? Per cui quello che cerca di dialogare con te è il peggior nemico. Sì, perché semplicemente perché si astiene, non vota contro, eccetera. Tra l'altro, in questa roba della scuola, ragazzi, diciamoci la verità, non c'è nulla di così drammatico. Si dà un po' più di potere ai presidi, sì, vabbè, d'accordo, poi il merito se ne parla da 30 anni, c'è una cosa tutta complessa sulle scuole private che è tutta da verificare, tutta da vedere, non c'è nessun attacco. A me poi mi fa impazzire questa cosa, l'attacco alla scuola pubblica. Ma dov'è l'attacco alla scuola pubblica? Dov'è? Tutta una cosa strumentale, dai! La scuola pubblica l'hanno distrutta gli insegnanti, quelli che adesso fanno casino. Cioè, gli stessi che fanno casino, funziona, certo. Se la scuola non funziona, di chi sarà mai la responsabilità? Dopodiché sono d'accordo con te, una riforma secondo me dovrebbe essere molto più radicale, a cominciare dalla licenziabilità degli insegnanti. Il preside deve poter assumere e licenziare come qualsiasi capo azienda. Purtroppo sono dipendenti pubblici, come sai in Italia sono illicenziabili. E per cui possono scendere in piazza e urlare contro chiunque, tanto è la stessa cosa. Ma secondo te veramente vanno sgomberati questi qua? Anche con la forza? Beh sì, anche con la forza, nel senso che se arriva l'ordine di sgombero e tu non lo segui, è come gli ultra, come i black bloc, come chiunque altro occupi indebitamente il suolo pubblico. Io credo che le manifestazioni nel centro delle città non si devono più fare, basta, fine. Tanto questo non era il corteo dei metalmeccanici, 1 milione che arrivano a Roma una volta l'anno e quelli, vabbè, è una grande festa ed è anche giusto che ci sia. No, quelli erano 100 esagitati, hanno tenuto in scacco decine di migliaia di persone, turisti, stranieri, gente che tornava a casa, oppure vabbè, nel mio caso di gente che usciva la sera. Parenzo, hai qualcosa da aggiungere su questo o no? No, io su tutto il resto sono assolutamente d'accordo con voi e con Rondolino, ma su questo delle centri storici vietati alle assolutamente maestri, questo no, perché poi dopo si devono rispettare le regole, devo rispettare le regole, ma no, cioè, ma cosa sta, bisogna violare le regole, che è chiaro che bisogna rispettare, però spesso non vengono rispettate, perché ad esempio viene concessa una piazza dalle 7 alle 8 o dalle, vabbè, dalla mattina. Un dettaglio, no, non è un dettaglio, perché effettivamente quello che dice Rondolino, la manifestazione che è cominciata la mattina e che fino alle 10 viene di sera, tiene bloccata la città, questo fa arrabbiare. Dopodiché, no, ma la cosa fondamentale è un'altra, è la cosa punto. È che va vietato drasticamente al centro delle città, va vietato alle manifestazioni, un accordo anulare, vabbè. Ma certo, ma non ho capito, ma qual è il punto? Che deve andare a rompere i coglioni alla gente al centro storico e bloccare una città? Ma questo avviene in tutte le grandi capitali d'Europa. Io ricordo Parigi che fu bloccata per dei mesi, Parigi ad esempio, perché si possono, che dici Fabrizio? No, dico, si possono, quello che accennavo prima, cioè davanti a Montecitorio c'è posto per 50-100 persone che tirano fuori i loro cartelli vabbè, e dicono le loro cose. Questa è una cosa democratica e civile, nel senso che è garantito il loro diritto al dissenso. Ma com'è questa piazza? Anche il loro diritto di interlocuzione diretta con i parlamentari, no? È anche garantito il diritto di 2 milioni di romani di vivere normalmente. Ma questa piazza qua che hai visto in questi giorni sulla scuola, eccetera, che com'è? Una piazza estremista, una piazza un po' fascista, una piazza... Ma No, ma no, fascista no, cioè poi sono parole che non hanno più molto senso, è una piazza di ignoranti. Guardate, a me la cosa che mi impressiona di più a sentire i telegiornali, i talk show, è come parlano male, come non sanno esprimersi, come la pochezza di argomentazioni, questa idea di intoccabilità, non si sa in base a quale criterio, il rifiuto di farsi giudicare, le cadenze dialettali ed orribili. In che senso le cadenze dialettali? Ma parlano, ma ce ne sarà uno su dieci che parla italiano standard, quello che parliamo noi, gli altri parlano delle cose che appunto non so che materie insegnano, cioè non è un quadro veramente desolante. Guardate che io amo la scuola pubblica, i miei figli sono andati a scuola, mia figlia va a scuola pubblica, e vorrei che i miei nipoti ci vadano, cioè non perché altrimenti vincono i ricchi, siccome io credo che l'istruzione sia un bene universale, e però, viva Dio, bisogna farla funzionare questa scuola, bisogna che i professori, esattamente come voi due a fine stagione, vi valutano, no? Certo. Avete fatto ascolto, non avete fatto ascolto, quante querele, quante minacce di morte. Quello purtroppo tante. Allora, fermi un attimo. Se rinnovare il contratto oppure no. Fermi un attimo che c'è la pubblicità, poi torniamo. Monellacci. La Zanzara. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Allora ragazzi, pare che Borghezio alla fine, per le frasi dette qui sui Rom, sia stato condannato a pagare solamente 1.000 euro. Al di là del risarcimento alle parti civili, pare che la sentenza alla fine sia solamente 1.000 euro di multa. 1.000 euro di multa. Mentre Berlusconi verrà portato in forma coatta a testimoniare al processo di Bari, quello sull'escort, e lui dice che farà scena muta. E vi ripeto, la cosa inquietante della frase di Salvini di oggi sull'insegnamento del sesso nelle scuole è esattamente quello che ho detto ieri, ma veramente uguale, identica. Allora ho il sospetto che o lui senta la zanzara, oppure, che ne so, oppure la pensiamo allo stesso modo. Se una maestra parla di sesso a mia figlia, vado a scuola e le faccio una faccia così. Allora, io voglio chiedere una cosa a Rondolino, ma Fabrizio, io penso che se una professoressa, maestra, cioè se si dovesse insegnare, è che è sbagliato, molto sbagliato, insegnare il sesso a scuola. Cioè non capisco quale sia, al di là delle questioni dei gay, il gender, tutte queste cose qua, parlare di differenze di sesso, di sessualità eccetera a bambini di 9, 10, 11, 12 anni a scuola, quando c'è la vita all'esterno e ci sono i genitori, sia una roba che non si deve fare. Ma guarda, da genitore sono abbastanza d'accordo, anche se da figlio facevo le battaglie per l'educazione sessuale nelle scuole, che era una parola d'ordine negli anni 70, soprattutto il movimento femminista, ma insomma fatto proprio dalla sinistra. Mentre invece effettivamente no, con la maturità, credo, hai detto bene, sono questioni che vanno, che è giusto discutere in famiglia, anche perché poi ciascuna famiglia decide il modo, decide la metodologia, diciamo così. Ma certo, cioè che bisogno c'è che i professori insegnino sulla base di quali testi? Ci possono essere 1.000 testi, e poi cosa devono insegnare? A che età si inizia a masturbare? Può insegnare, ma parliamo del liceo, non so, la sessualità, storia, la sessualità che ho all'università. Sì, appunto, è il liceo, cioè stiamo parlando del liceo al massimo, cioè al limite, certo, cioè, ma certamente non prima. Vabbè, comunque. Ma no, e la cosa è che insegnano la diversità. Ma anche sta cosa di insegnare la diversità, no, ma che vuol dire che una bambina di 10 anni, ma glielo dirò io, normale, ma se glielo dirò, è normale che in una classe ci sia un bambino ebreo, uno ateo, uno musulmano, ma c'è bisogno di insegnare, ma che vuol dire che no, insegnare la diversità? Non c'è un libro, c'è uno quotidiano che lo può fare anche un insegnante di matematica. Cioè non c'è un libro che te lo fa, ma è, come dire, un modo come concepita la scuola. Ma quello è un altro discorso, però l'insegnamento... No, scusami, questa non è una materia di insegnamento, questa è una modalità. No. Per esempio le mie figlie, a proposito di averci in classe l'ebreo, il musulmano, l'arabo, il cinese, hanno come dire, imparato crescendo e andando nella scuola pubblica, che la società è multietnica, e tra l'altro sono anche venute antirazziste, credo anche per quel motivo lì, no? Ma non è che uno gli ha fatto la spiegazione. Ma sì, ma dai. No, ma io non sono per spiegare niente. Deve essere, è normale che, però, siccome spesso succedono episodi di bullismo, di razzismo nelle scuole, beh, succedono. Ma sì, ma non è legato all'insegnamento. Non è che se ti insegnano che non devi picchiare qualcuno, non lo fai. Cioè, che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma quindi, per essere pratici, io non ho mai parlato di mettere libri di testo che insegnano la tolleranza. Mi sembra una stronzata mega galattica. Cioè, la tolleranza uno si legge di ecco. Oh, si legge gli Illuministi, non è che sia un libro che ti spiega l'ora di tolleranza, non esiste, stupidaggine, non è che dice, entra l'insegnante allora... di intolleranza. Dico semplicemente che però siccome episodi comunque di razzismo ce ne sono ce ne saranno sempre gli insegnanti tutti allora? Di matematica, di fisica, di ginnastica, non è che ce n'è uno specifico, sapere segnalare e soprattutto insegnare quotidianamente che cos'è la diversità, farla venire fuori, farla emergere, valorizzarla. Non significa, non ho capito che significa. No, va bene, ma lo stesso. Significa. Però noi abbiamo sovrapposto due discorsi in realtà che c'entrano poco, la multirazziale, la multietnicità, diciamo così, la tolleranza e l'educazione sessuale. L'educazione sessuale è effettivamente una cosa, come dire, anche molto più privata. Ma assolutamente, no? Ma per carità, assolutamente. Assolutamente. Senti, io non ho capito come la pensi tu sulla vicenda di Sofri, di questa discussione che c'è stata nei giorni scorsi. Ma guarda, io credo che... Cioè, alla fine è stato Calabresi a far cancellare la cosa. Più o meno ha avuto un contributo fondamentale il direttore della stampa, no? Il figlio del commissario Calabresi. Sì, direi di sì. Ma guarda, chi esce, l'unico che esce bene da questa storia è Sofri, che devo dire a me non neanche sta particolarmente simpatico, non sono un sofrista, anche se ne apprezzo molto le qualità intellettuali, però lui era perfetto per quell'incarico, perché si tratta di discutere sul carcere, un intellettuale che è stato in carcere è in grado di dire comunque le cose utili, come tanti poi altri. Non per forza, come tanti altri, però non è che... Non è che il Galeazzo, questo non è un discorso razzista, attenzione, questo è un discorso di competenze. Ma come se tanti altri, Fabrizio, dai. Se tu sei in galera, no, però attenzione, se tu stai in galera e hai anche la capacità di riflettere sulla galera, sei più utile alla giustizia che stato in galera e basta. Ma senza, sì, ma senza insomma, togliere nulla all'uguaglianza. Ma è una roba inopportuna, diciamo. Ma è evidente, c'ho con tante persone che puoi scegliere, non puoi andare a scegliere uno condannato a 22 anni per essere mandante di un omicidio, ma è una cosa senza senso, dai. Cioè. Però scusate, vale anche il contrario, e cioè è la prova che lo Stato funziona. Cosa serve il carcere? A cosa servono le condanne? Le condanne, se hai scontato la tua condanna, tra l'altro c'è lo stracismo a vita, che però è ma non è lo stracismo a vita, nessuno gli impedisce di lavorare, nessuno gli impedisce di fare quello che vuole, e c'è, diciamo, come dire, un sentire comune che ti impedisce di essere, come dire, di diventare consulente dello Stato. Questo è il punto. Proviamo a rovesciare il ragionamento. Lui è il peggiore di tutti i delinquenti. No, decide di mettere a disposizione le sue competenze sul carcere. Sì. Per un progetto di miglioramento della situazione carceraria come sai queste stato. Cose qui si fanno spesso, vengono utilizzate le persone, ma in segreto. Allora io proponevo nei giorni scorsi una cosa: se davvero è così competente, se facesse 2-3 cene a casa di Orlando insieme a Renzi, spiegando come funziona le carceri, vederci, no, grazie. Non sei un ipocrita, tu non puoi dire questa cosa. Sì, io invece non lo puoi neanche pensare, tu non sei un ipocrita, scusami. Questa roba è una roba da gesuitismo spagnolo. Non è concepibile che uno condannato così abbia a che è fare con lo Stato. È un riconoscimento che lo Stato avrebbe dovuto dare a Sofri proprio per il suo percorso, è esattamente il contrario. Cioè, ma tu però ti sei accanito ancora una volta sulla vicenda di Pinelli, Fabrizio. Però scusate ragazzi, allora la famiglia del commissario Calabrese giustizia l'ha avuta, giusto o sbagliata, nel senso che le sentenze si discutono, però e Pinelli chi l'ha ucciso? Vabbè, ma che vuol dire? È un altro Pinelli discorso, ha... un altro... Vuol dire? Vuol dire, ma che vuol dire? Calabrese, pur avendo ottenuto giustizia, si ritiene in dovere di sindacare chi può e chi non può collaborare con il governo italiano. Allora io mi chiedo anche, vabbè, ma allora non avete niente da dire su Pinelli? Mica sono responsabili loro, perché al limite il padre, no? Uno può, che peraltro non ha avuto, cioè è stato No, è il sistema della giustizia italiano, si dice. Non sì, ma ho capito, ma non c'entra, cioè, vabbè, comunque è una vicenda vecchia. Ciao Fabrizio, ma a presto. C'è stato. Ciao. Buona serata. Allora, andiamo a Perugia, Luca, vai. Luca, volevo parlare prima riguardo all'argomento dei trans, ma ora sentendo queste cose voglio cambiare un attimo argomento. Di che partito politico era il signore che ha parlato fino a un minuto fa? Di nessun partito politico, era, diciamo, stato nel Partito Comunista tanti anni fa, poi nel... Ok, comunque, sentire discorsi così da un appartenente alla classe politica riguardo ai nostri bambini, vostri che io non ce l'ho, ai bambini italiani in mano a questi insegnanti, la domanda sarebbe: ai nostri bambini in mano a questa classe politica? Che 100 insegnanti che bloccano il centro di Roma, ora ci vogliono levare il diritto anche a manifestare nelle città. Ma no, ma il diritto c'è, c'è anche il diritto a non rompere i coglioni alla gente normale. Sì, la gente... sì, che sono un peso per 2 milioni di romani. Ma i pesi per i romani è quella classe politica marcia che ha corrotto tutti i settori. Ma quello in generale, certamente sì, rispetto a quelli che manifestano. Uno esprimeva, come però, dire... Però, sentire dire a gente che sono gente ignorante, che non sanno nemmeno parlare, gente che ha vissuto tutta la vita con i pranzi pagati, i viaggi pagati, a gente che nelle loro scuole non c'ha nemmeno la carta igienica, e le pareti le devono verniciare i babbi il sabato pomeriggio, e guadagnano 1.100-1.200 euro e campano tutta la vita senza la certezza di uno stipendio. Ma no, la certezza... È un pochino più squale, dovete sentire... La certezza dello stipendio c'è, non c'è dubbio. La certezza c'è per quelli assunti, ovviamente. No, per quelli assunti c'è. Ho capito, però, Luca, la certezza c'è, su quello non c'è dubbio. Vabbè, ho capito, ti sei incazzato con Rondolino. Elisabetta, provincia di Trento, vai. Pronto? Vai. Buonasera. Senti, volevo intervenire per tanto dare solidarietà alla signora Paola, che avete fatto parlare prima. Sì, però devi mettere meglio il microfono, devi cambiare qualche cosa. Se no sei in viva voce, dai, amica mia. Elisabetta? Eccomi qua. Vai, eccomi, forza. Qua. Volevo dare solidarietà alla signora Paola, sì, perché il cretino non doveva parlare. Poi? Ma il cretino parla sempre. Prima. Il cretino parla sempre. Il cretino, però... sono anche gli idioti che lo ascoltano e bisogna anche stoppare la gente. Non bisogna che stoppare poi nessuno. Crede. No, bisogna fare attenzione perché poi qualcuno lo segue. Vabbè, e poi bisogna anche fare nessuno segue nessuno, questo. Questa follia. La seconda che la cosa gente invece la segue. Che ti volevo dire è che l'educazione sessuale o educazione alla sessualità nelle scuole non è fatto dalle maestre e dagli insegnanti così, viene fatto da personale preposto. E questa è una grande differenza. Ma preposto a cosa? Nelle scuole preposto a questo. Che? Ma non preposto sei... perché. Beh, io ho figli e so che come hanno fatto educazione sessuale a scuola. Non lo so, ma dove l'hanno fatta? Dove l'hanno fatta questa educazione sessuale? A Treviso, a Torino. A che livello di scuola? Allora, hanno iniziato nella scuola primaria, hanno continuato alle scuole medie e l'hanno fatto mia figlia. Ma io non so, alla scuola primaria che cosa hanno insegnato? Hanno insegnato educazione alla sessualità. Ma che hanno vuol dire? Iniziato cioè... a parlare di affettività, hanno iniziato a parlare di affettività, di diversità tra uomo e donna, di come nascono i bambini, da personale a dieci anni. Certo. A 10 anni. Ma se qualcuno insegna a mia figlia come nascono i bambini a 10 anni, ma gli do una botta in testa, amico mio. Cioè, appunto, a 9 anni, a 10 anni, io lo dico io come nascono i bambini. Non è che ci vuole un professore che mi spiega come nascono ma i bambini. Ma non è un professore. Ma non mi interessa. Assolutamente. Non è utile. Non mi interessa. Ma si fa, non è utile? Si fa in famiglia, perché basta con queste cose. Sono come i cretini che parlano prima, che iniziano a dire che i gay qua e là. Ma cosa? Vedi, ma che vuol dire? Ma io, mia figlia a 9 anni, no, deve arrivare qualcuno dall'esterno a dire che ci sono i gay? Che ci sono quelli omosessuali, ma glielo allora, dico io. Si parla di glielo educazione. Dico io. Allora, Cruciani, fermati. È incredibile. Educazione è incredibile. Civica, ok? È incredibile, ma qualcuno deve spiegare la matematica, la geometria, l'italiano, eccetera. Non che esistono i froci, ma non sono bigotto. Io sono, la persona più aperta del mondo, ma la voglio dire io. Ma cosa vuol dire? Ma guarda ma che siete veramente alla follia. Morale, ma io voglio spiegare a mia figlia, io e non un professore che non conosco, sono cosa sono i froci o i gay, chiaro? Lo voglio dire io, non a 8 anni. E tu come genitore hai guarda che è pazzesca sta cosa, guarda. Ma io però no. Ci sono anche genitori che non lo fanno e bambini che crescono assolutamente guarda con idee sbagliate perché questa. Non hanno la ma idee sbagliate cosa? Ma nessuno nasce con idee sbagliate, ma dove vivete? Ma chi? Idee sbagliate chi? La gente nasce con idee sbagliate, ma dove? Nasce con ragazzi che non sono. Ma adesso arriva uno dall'esterno invece che ti insegna come funzionano le cose. Certo, ci sono i gruppi, i bigliettini, tutte ci robe, parlano, vanno tutte a robe che servono loro. A finanziare associazioni, associazioni e cose di questo tipo. Un granchio, lo stai trattando questo argomento con molta superficialità. Ah, quello sicuro. Ciao, pubblicità. Sì. Ciao. Ma maledetto il giorno io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. La Zanzara. sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Lucia, sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, un mondo così fa cagare. Allora Massimo d'Arezzo, vai, che sono carico, vai Massimo. Complimenti per la trasmissione, volevo solo dire due cose. Una, sono d'accordo con te sul fatto che le persone che a scuola non si debba insegnare assolutamente educazione sessuale, soprattutto ai bambini, ma solo per il fatto perché non esiste un giusto o sbagliato in quello. Cioè non capisco cosa insegnerebbero. Ma lo sai, si può insegnare come è fatto il corpo umano, vabbè, d'accordo, ma insomma. Ma sì, però quella lì è un'altra materia. Sì, anatomia, là, queste robe qua, ma tutto il resto appartiene al mondo, come dire, a un mondo che privato, come diceva prima Rondolino, no? Un mondo dell'insegnamento. Poi uno può insegnare, sì, che esistono quelli neri, ma i bambini lo vedono, no? Da soli esistono i neri. Ma sì, ma la differenza è la prima cosa che nota il bambino, ma lo fa senza malizia, invece la. Ma non è che la scuola bisogna insegnare tutto perché altrimenti si diventa matti, no? Cioè, ma la signora di prima sbagliava. Vabbè, Massimo, allora considerava, secondo me, giusta una cosa o ingiusta, cioè dove, ok. La seconda cosa che volevo dire è che secondo me io Parenzo mi è simpatico, però quando si infervora sembra troppo una checca isterica, quindi deve finire. In che senso, scusa? Sembra compagno di segnarsi il cambio registro. Hai ragione. No, infatti adesso hai ragione, perché cambio completamente registro, cambio registro, sì, come gli insegnanti. Sì, esatto, bravo, cambio completamente registro, completamente. Che vuol dire, concretamente? Non vedrà cambi, allora. Vuol dire che non più una parolaccia, No, dici quando parolacce, urli, non quando urli, no, intanto, troppo, no, ma infatti non urlo più, perché se urlo, mi si alza il to, esatto, no, ma non urlo più perché sei sguaiato. Ti do ragione. Vabbè, Giovanni dai Isernia, no, dai. Ti do veramente ragione e grazie per aver chiamato. Giovanni dai Isernia. Parlo con il fratello dei trans? Chi sarebbe? Io, sì, ho tutti i miei fratelli trans. Fratelli. Sì, ti volevo dire due paroline a te e a quella persona che ha chiamato prima, non so, ma per te, quella persona che ha chiamato prima è tuo fratello o tua sorella, prima di tutto? Beh, è un trans. Voglio sapere, è tuo fratello o tua sorella? Di solito i trans sono, come sai, sono maschi e poi che trasformano il loro corpo in donne perché si sentono femmine. Quindi è sia tuo fratello che tua sorella? Sì, ma non c'è niente di strano. Ah, non c'è niente, ok. Sì. Qual è il problema? No, volevo soltanto dire, siccome quella persona di prima ha detto che loro esistono ed è normale perché ci sono molti uomini, molte persone che vanno con loro perché trovano soddisfazioni, e trovano evasioni e roba varia, allora anche le persone che si bruciano il cervello con la droga, che si drogano, è normale che esista la droga. Siccome ci sono dei terroristi che uccidono le persone, è normale che esistono i terroristi. No, vabbè, è ha detto tutto normale. No, ma non è questo. Ha detto stava spiegando cosa pensava dei suoi clienti. Ok, cioè, ma non mi dire stava che dicendo è di essere utile alla società, normale, ma non normale non per me. Non dire che è normale. Per me è normalissimo. Per me è no, perché allora è normale la droga, i terroristi, ma tutto. Non c'entra il mondo niente, è pieno dai. Di cose, non di c'entra. Cose diverse. Fermo là, fermo traffico. Il traffico è il problema. La Zanzara. If you start to feel like there's no time to waste, baby, try to let go. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilerata. Sì, ma dai, fatti bravi. Allora, ve lo ricordate Don Inzoli, Don Mauro Inzoli, detto anche Don Mercedes, perché insomma amava andare con macchine lussuose, già dirigente di primo piano di Comunione Liberazione in Lombardia, capo del Banco Alimentare, è stato rinviato a giudizio, con l'accusa di violenza sessuale con abuso di autorità e violenza sessuale aggravata per abuso di minore di 12 anni. Secondo la procura di Cremona ci sono 5 vittime. Allora, perché parliamo di Don Mauro Inzoli? Ve lo ricordate, andò pure ad un convegno organizzato presso la Regione Lombardia sulle famiglie, eccetera, eccetera. Don Mauro Inzoli è stato a un certo punto sospeso, anche se non cacciato dal clero, dalla vescovo di Crema, in considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo provocato da abusi su minori. Questo lo dice il vescovo stesso, Don Inzoli è invitata a una vita di preghiera e di umile riservatezza come segni di conversione e di penitenza. Non potrà svolgere accompagnamento spirituale nei confronti di minori, attività ricreative, culturali, non potrà dimorare nella diocesi di Crema, e poi 5 anni di adeguata psicoterapia. Tutto questo è stato deciso dal vescovo di Crema. Allora, ripeto, perché parliamo di questo signore alle 20:23? Perché è stato rinviato a giudizio, nonostante il fatto che il Vaticano, nei confronti di uno che la stessa diocesi di Crema aveva definito sostanzialmente un pedofilo, non ha trasmesso gli atti, però è stato rinviato a giudizio lo stesso. Tempo fa noi lo chiamammo e lo facemmo parlare col Papa, Papa tra virgolette, ve lo ricordate? Per quanto riguarda invece il tuo caso, la Chiesa lo sai, ha deciso, ma noi non abbiamo mai parlato. Ci sono delle indagini in corso. Tu ti senti colpevole? Hai fatto qualche cosa ai bambini? Ma santità, lei ha visto e lei lo sa. I bambini, io devo sapere la verità e voglio sapere esattamente, Don Mauro, la verità. Santità, lei ha conosciuto perché ha visto la documentazione e lei lo sa. Per cui è lei che mi ha... Sì, ma io voglio sentire direttamente dalle tue parole le cose. Le carte sono carte, io voglio sentire dalla tua voce la verità. Pronto, Don Mauro? Pronto? Davide da Pordenone. Dai, Davide. Ciao, Giuseppe. Dimmi. Dunque, io sono uno degli operatori che vanno a fare i laboratori nelle scuole medie, sì, mediamente delle scuole medie. Medie, sì. Per educazione alla sessualità, affettività. Sì. Allora, sì. Quello che volevo dirti, che tu hai ragione, è vero, in casa i genitori dovrebbero parlare di queste cose, ma spesso e volentieri non è così. Non sono tutti svegli come te, capito? C'è gente che gli dice che se te viene su Reccion, io sono friulano, mi te copo, Dio caro, dicono così, hai capito? Cioè, che vuol dire? Beh, si capisce cosa vuol dire. No, io non capisco, spieghiamo. Mi pare che si capisca, no? Ma capisci tu? Ma vuoi fare tradurre dal friulano chiunque? Allora, capisce? Davide, no, traduci, per favore. Io non sono uno psicologo. Vuoi tradurre quello che hai detto non prima, per favore? Sono uno psicologo e non so... Cioè, scusami, traduci quello che hai detto prima, ho capito, ma... vieni su omosessuale, io ti spacco le gambe. Benissimo. Non allora? Tutti sono così, ma nemmeno tutti sono svegli come te. Quindi c'è bisogno di parlare ai ragazzini rispetto all'affettività, alla sessualità. E poi non è che sono interventi fatti così a catto. Sono programmati con psicologi, sì, con gente preparata, e noi che siamo operatori dell'adolescenza, dell'infanzia, andiamo a lavorarci. Sì, no, Davide, io non metto in dubbio la professionalità delle persone che parlano di queste cose, eccetera. Io sono del parere, ma ovviamente è il mio parere, la mia idea, che parlare di differenze di genere, omosessuali, donne, uomini, transessuali, allora perché non parlare pure di trans? Perché no? Di sesso, a ragazzini, da parte di un professore, da parte di un insegnante, da parte di un operatore come te, a un bambino di 11, 12, 13 anni, Io non dico che provoca danni, dico che queste cose, secondo me, sono ambigue e non serve un professore, serve la vita e serve la famiglia, i genitori, quando ci sono un genitore, due genitori, tre genitori, quattro, il nonno, la nonna, i due genitori gay, i due genitori omosessuali, quello che è. L'intervento di uno dall'esterno che ti dice guardate che essere gay non significa essere diversi. Ma non è che diciamo questo, eh? Non lo so, che dici allora sull'omosessualità? Semplicemente, per esempio, fammi un esempio di quello che dici sul sesso, sulla masturbazione. Insegni, dici qualcosa sulla masturbazione? Non lo so, magari diciamo sì, lo vedi. È l'unica fonte di piacere che un ragazzo di 16-17 anni ha. È un problema. Ah, se così invece, tu spieghi questo nelle scuole. Integra, diciamo, una bella. Tu spieghi questo ai ragazzi di 13 anni. Che se sicuramente la... sì. Ma io non so, ma io terza ma, media, ma, terza... alla terza media tu dici a uno che. La... non spiegami bene perché mi comincio a preoccupare. Allora, cioè, non ho capito. Io dico. Cioè, tu dici che se a un ragazzo di 13 anni. Di masturbazione parliamo. Sì. In maniera perché devi parlare di masturbazione in classe, in una classe a gente di 13 anni? Io non capisco, ma è una follia. Ma che chiedono loro? Ma certo, te lo chiedono loro perché stai lì te. Vabbè, allora ti dico bugie. Per forza. Perché sanno che loro me lo chiedono, perché... io rispondo. Ma vuol dire che è utile, però, scusa. Vabbè, ragazzi, ma fate come vi pare. A me che cazzo me ne frega. Ma fate quello che vi pare. Ma se volete insegnare ai bambini che non bisogna farsi le pippe, insegnate ai bambini che non bisogna farsi le pippe. Amico mio. No, ma è questo sta dicendo Davide. Sta dicendo che se la masturbazione è l'unica fonte di piacere, giusto, Davide? Davide? Sì, esatto. Ma appunto. Sì, sono qua. È un problema. Ma la grande scoperta, abbiamo fatto la grande. Dai, su, ragazzi. Ma ci sono bambini che non lo sa. Ci sono ragazzini che sentono, vanno in paranoia perché quando vedono un'erezione propria, hai capito? Arrivi te perché a 13 anni. La mamma non gliene parla. Arrivi te e risolvi. Ma non devo arrivare io. Me lo chiedono loro. Te lo chiedono loro, vabbè, ragazzi, sarò su questo. Quando si fanno questo. Le prime canne, quando si prendono le prime sbronze. E che fanno? Che ti dicono? E poi parlano anche di queste cose qua. Parliamo di YouPorn, hai capito? Vabbè, ma che quello va bene, quello ne parlano tra di loro di YouPorn, ci vanno direttamente. Cioè, non c'è bisogno di un moderatore di YouPorn. Però alcuni, andateci, però magari, non fatevi troppe seghe. Nelle classi c'è sempre lo sfigatello. Che ciao. Non capisce niente, che magari dice. Vabbè, Davide, che ti devo dire? T'abbraccio, ciao. Brucida. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Parenzo, sai che esiste una radio che si chiama Radio Rom Revolution? Ah no, questo non lo sapevo. Radio Rom Revolution, che è una radio fatta dagli amici Rom, in particolare dei tuoi amici, i tuoi amici Rom. Beh, non è che io ho amici, io conosco alcuni capi Rom, ma non è che... Vabbè, ma amici, l'hai capito in che senso? E parla, alza la voce, alza la voce. Non posso alzare la voce, perché altrimenti poi chiama qualche idiota. Sì. Che no, ma devi alzare la voce, perché sennò non si sente la radio, è diversa la cosa, non si sente, alza bene, la voce. Va bene. E con noi lo speaker principale di Radio Rom Revolution su Facebook, si chiama Tony il Figo De Ragna, è Rom in carne e ossa, non so di quale, come dire, no, di quale... Rom Arrivati. Come si dice, Tony? faccio parte del gruppo Rom Arevati. Rom Arevati, che sia, croato? No, Arevati. Arevati. Arevati, esatto, Rom provenienti dall'ex Jugoslavia, la mia famiglia per l'esattezza dalla Seconda Guerra Mondiale. Allora, ho incontrato Tony Deragna durante il processo a Borghezio, ho saputo che tra l'altro Borghezio è stato condannato a pagare solo 1000 euro di multa per questo processo, ho saputo oggi, sì. Al di là del vostro risarcimento, sì, quanto avete preso voi? Tu che associazione sei? Io rappresento l'associazione insieme a Diana Paolovic, l'associazione Rom e Sinti Insieme. Avete preso 5000 euro, Rom e Sinti. No comment, ma che sta, ma che è il coso, il segreto dei fati, ma comunque vabbè, no comment perché avete preso i soldi lì, però è stato condannato alla fine solamente a 1000 euro, sei un po' dispiaciuto per questo o no? No, assolutamente, cioè, nel senso, innanzitutto io oggi non ero presente all'udienza perché ero al lavoro, sì. Ero nel mio studio, ecco. Come dire... Ma tu lavori? Me... Tu lavori? Sei uno di quelli che... Sei un rom, certo, che lavora? Certo, non sono l'unico. Quanti siete che lavorate? Dice, cioè... Allora, scusa, non è che posso dirti l'esatta cifra di quanti rom lavorano, come dire l'esatta cifra di quanti italiani lavorano, cioè nel senso di quanti nel mondo lavorano, non bisogna, cioè è una domanda abbastanza un po'... No, scusa, secondo te quanti rom lavorano? Siccome io sento politici e non solo politici che dicono, vabbè, ma insomma il 90% non lavorano in sostanza. No? Beh, io dico questo ai politici, che bisogna più documentarsi di più sulle persone, documentarsi più su un popolo, del popolo rom e sinti attualmente in Italia. Che lavoro fai, Tony? Io faccio attualmente lavoro come speaker, praticamente diciamo che siamo colleghi, dai. Ma scusa, speaker a Radio Rom Revolution, dove vi ha dei sordi Radio Rom Revolution? Eh beh, questo non è un... lavoriamo all'interno degli studi di Radio Diritto Zero, che è una radio web, no? Praticamente lui ci ha messo a disposizione questo studio dove noi possiamo esprimere le nostre opinioni, parlare del... Senti, popolo. Senti, Dragna, tu che ne pensi di Borghezio? Che sia un razzista, diciamo la verità. Cioè, cosa ne penso di Borghezio? Sì, che è un razzista, allora, dai, non fare dell'erba tutto un fascio, come che si dice, razzista. Lui esprime il suo modo di pensare, sarà macabro, sarà un po' fatto male, ma purtroppo lui la pensa così, il suo pensiero non è che dunque, la può... E dunque per te che cos'è? Razzista? Razzista, come dire, ha un suo pensiero sui rom e quel pensiero non glielo cambia nessuno. D'accordo, la Santanchè per esempio che spara pure lei a zero sui rom, come la giudichi? Beh, la giudico come tanti altri politici, ignoranti nel fatto di materia della conoscenza, del sapere. Perché gli italiani vi odiano così tanto? Non tutti gli italiani. Molti italiani, tutti, quelli che... Molti, una gran percentuale degli italiani, sì, purtroppo. Come mai vi odiano? Non vi sopportano? Appena vedono un rom si impressionano, hanno un moto quasi di repulsione. Questo te lo chiedo, come mai? Sì, perché allora se un qualcosa non lo conosci, un qualcosa che non conosci, tu hai paura, timore di un qualcosa che non conosci, appunto che non lo conosci hai paura, giusto, no? Quindi, ripeto... Per pregiudizio, cioè gli italiani sono pieni di pregiudizi, secondo te? Molti italiani sono pieni di pregiudizi. Sì, però guarda, se vogliamo guardare la storia, guarda che anche gli italiani hanno subito quello che stiamo subendo noi rom attualmente, cioè? In Italia. Cioè nel passato, XIX-XX secolo, erano gli italiani che emigravano in altri paesi e venivano rifiutati da tutti. Emigrati, adesso voi siete molti, tu sei italiano immagino, no? Sì, sì, però voglio far capire un po' il concetto, no? Ad esempio in America negli anni 70, quando venne il presidente Richard Nixon in Italia, dichiarò che gli italiani non erano soltanto diversi dal resto degli europei, ma che avevano anche un odore diverso, cioè queste sono le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti d'America. Senti una cosa, io ti ho chiamato principalmente perché io vorrei inaugurare con te, Tony, a parte che tu pensi, mi hanno detto che i rom dovrebbero avere il premio Nobel per la pace, non ci posso. Ma no, ma dai, ma è assurdo. Perché? Secondo te perché? Perché nella storia dell'uomo, nella storia dell'umanità, il popolo rom e sinti non ha mai fatto guerra, non ha mai fatto spargimenti di sangue per conquistare una propria terra, ragazzi, rivendicare una propria patria. Il premio Nobel per la pace ai rom. Non è sbagliato, è vero però. No, scusa, se il premio Nobel viene dato per una giusta causa, non è giusta causa pace? La pace? Non è una cosa buona la pace? O no, scusa. Ma sì, va bene, d'accordo, ma addirittura il premio Nobel per la pace, amico mio. Ma diciamo che era in qualche modo un po' di ironia, una battuta. La cronaca è piena di racconti incredibili su quello che avviene nei campi. Tu dove abiti, scusa? Ma scusa, ma non è colpa del... Ma questi sono i giornalisti, i media in generale. Io abito in un villaggio. C'era un campo rom? No, il mio è un villaggio. È diverso perché il campo... Villaggio, che vuol dire villaggio? Chi paga? Allora, campo è praticamente... Chi paga l'elettricità, le bollette, chi paga? Loro. Noi. Voi pagate tutto, sì, sicuro, sì. Certo, noi siamo cittadini italiani regolari e come tali dobbiamo rispettare le leggi. Se la legge prevede che la luce e acqua bisogna pagare, la si paga. Sì, no, ma ho capito, ma non è che per gli altri non è così, come sai, per molti campi rom non è così, come sai. Vabbè. Beh, ma scusa, è colpa dei cittadini italiani o dei rom o... Scusa, che Salvini, di Salvini, che dice, Salvini che dice che ci vuole la ruspa, fa bene o no? La ruspa per i campi rom. Beh, se secondo Salvini, come dire, l'immagine del rialzarsi dell'Italia dalla crisi e di abbandonare... Vabbè, ma quello... No, ma scusa, se il suo unico slogan è la ruspa, la ruspa è una forma di distruzione, di annientamento, secondo me. Cosa vuol dire con quella parola? Ha tante frasi, tante cose da dire con una fascista, sola parola ruspa. Fascista? Salvini. Io ripeto, io non giudico nessuno. Beh, giudica come no? Stai qui a giudicare. No, comunque, vabbè. Tony, io ti voglio chiedere una cosa. Tu sei bravissimo a cantare. Voglio inaugurare con te una nuova cosa, Parenzo. Farà contento Parenzo. Cioè, una specie di festival, di grande reality, di concorso dei cantanti rom. Wow. Beh, eccezionale. Tu mi devi indicare i più bravi che ci sono. Voglio fare un concorso radiofonico sui cantanti rom. Tony, ma ce ne sono un sacco. Vabbè, ce ne sono un sacco, vedremo. Allora, Tony, che canzoni vuoi fare stasera? Beh, vorrei cantarvi l'inno internazionale del popolo rom e sinti di tutto il mondo. Anche noi rom abbiamo un inno, una nostra bandiera. Fammene una, se no che altra canzone mi puoi fare? Fammene due, questo qua e poi un'altra. Va bene, allora. Attacchiamo con l'inno. Va bene. Com'è che fa? Gelem gelem lungo nedro mensa. Mala dilemba salero mensa. Ma che? Male. Questo è l'inno rom, l'inno internazionale rom? Beh, struggente, l'avrebbe insegnato nelle scuole, questo. Ma si fa due coglioni così con sta roba, ma che... Bellissimo, bellissimo. No, aspetta, scusa, lì, guarda, due coglioni con l'inno, guarda, io sono fiero di appartenere al popolo rom, fiero del mio inno. No, non è offesa, No, aspetta, fammi finire, sono fiero di essere italiano e sono fiero di ascoltare anche l'inno di Mameli. Quindi la canzone Roma e Sinti, l'inno Roma e Sinti è stato composto dopo che siamo stati... Ma che parole sono? Spiegami un po', che parole sono? Le parole sono: io sono stato fortunato ad incontrare il popolo Roma e Sinti sulla strada. O gente mia. O gente, dove andate tutti quanti con quei bambini affamati? O gente mia. Ero fortunato di incontrare il popolo Roma e Sinti per strada prima della Grande Guerra, ma dopo no, perché non ce ne sono stati. Avevo una grande famiglia, ma la Legione Nera l'ha ammazzata tutta. Insomma, queste sono delle frasi. Queste sono le parole, vabbè. La voce non si è sentita bene, ma attacchiamo con un'altra canzone, vai. Ai pen manghe sce, ai pen manghe sce. Che tut calmes ma, me tut calma, tu manca me esterni c'hai. Questo è un pezzettino di una canzone. Com'è? Che canzone è questa qua? Parla d'amore, io ti amo, tu mi ami, insomma, tipo la napoletana, tipiche canzone napoletana. Ah, tipo i neomelodici napoletani. Esatto. Sì, neomelodici rom. Sì. Beh, amico mio, Tony Deragna dovrebbe, Borghezio dovrebbe cantare questa canzone come pena, che dici? Come lo porteresti a fare i servizi sociali in un campo rom, signor Borghezio? Non lo so, sinceramente, entrare un leghista in un campo rom. Perché? Beh, perché, scusa, ma se all'interno di una famiglia, di un condominio, di un contesto, c'è un qualcuno che ti critica sempre, tu quando lo vedi cos'è? Ma fare i servizi sociali, dico io. Ma no, se fosse possibile che in qualche modo attraverso la legge sarei compiaciuto ad aiutarlo ad essere tra il popolo rom, aiutarli a fare questi volontariati. Sarei più che avrei piacere a farlo con lui. Vabbè, Tony, che ti devo dire? Ti abbraccio. Bravo, ciao. ciao. Ma perché la gente perché la gente un po' si spaventa e controlla un po' le tasche, che il portafoglio sia a posto? Beh, ma se all'interno dello Stato italiano politici che dovrebbero mandare avanti questo paese, rubano più i politici dei rom, dici? No, aspetta, fammi finire. Politici che dovrebbero mandare avanti questo Stato, lo Stato italiano, uno degli stati più belli del mondo, io amo l'Italia, invece fanno tutto il contrario. Vedo che l'Italia si sta in qualche modo sgretolando. Cioè, sei più italiano tu di Salvini, dici? Sono più italiano io di Salvini o no? Allora, no, allora la mia famiglia è in Italia dalla Seconda Guerra Mondiale, però ci sono famiglie rom in Italia dal 1400. Vabbè, allora? Quindi sono molto più italiane rispetto ad altri italiani che continuano a dire al loro paese. Ma quale paese se il popolo rom non ha un proprio paese? Io mi reputo italiano, sono fiero di esserlo. Vorresti avere un tuo paese, tu, il popolo rom? Cioè, un paese ognuno Roma. Ha un proprio popolo. Che ne so, vorreste avere un paese, una, che ne so, no, ma non hanno un paese. Una nazione, una bandiera, o no? Lo so. La bandiera ce l'abbiamo. E qual è? Ma quella italiana dovrebbe essere la tua, mica sei rom, mica anche sei... quella. Non è vero, io sono fiero di essere rom e ho la mia bandiera rom, sono fiero di essere italiano e ho la mia bandiera italiana. Vabbè. Ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Comunque ragazzi, queste canzoni rom sono, fanno cagare, diciamo la verità, eh. Sono un po' bruttine, sono un po' bruttine. O no? L'inno rom è terribile, molto terribile. Bello, molto ma che bello. È molto bello, quando mai. Vabbè, Matteo da Milano, dai. Sì, buonasera, buonasera. Dai, dai, dimmi. No, io volevo intervenire sul doppiopesismo di Parenzo ogni volta, sulla questione Rondolino stavolta. Cioè, sappiamo che non la pensa come lui, però visto che comunque lo conosce, un ex sì, no, dice che non, guarda, è, che non è violento, sì, certo. Che non allora è va bene, se l'avesse detto uno di centrodestra l'avrebbe mangiato, no, anche solo non è così. Di centrodestra. Non è, non c'entra niente. No, c'entra, come no, c'entra. Fate tutte e due, se ce la fate, un piccolo passo in avanti e poi mi contestate. Sì, basta dico, che si senta quello che dici, perché dico, non si sente. Semplicemente che conta moltissimo chi dice una cosa, cioè se di una persona si sa che non è una persona violenta. È solo questo, poi potete continuare a pensare. Ma non è che la possiamo continuare a pensare, no, è un'altra cosa. Ha detto una roba che se l'avesse detta un altro se lo sarebbero mangiato. Conosco perché so. Ma anche lo sai tu, ma che vuol dire? Tu, ma tu sei più intelligente di come vabbè, dici. Aridaia, guarda che questa hai cosa. Capito cosa intendo. Vabbè, non intendo. Hai sbagliato quello che intendi, è sbagliato. Vabbè, è sbagliato. Barbara da Roma, è sbagliato. Io adesso vivo un prosticchino perché mi avete. Ma non me ne frega niente, basta che si senta. Barbara da Roma, dai. Avete ragione voi e vabbè. Barbara, dimmi. Sono buonasera Cruciani e Parenzo, solo per dire che trovo molto giusto l'educazione diciamo sessuale. No, se vi perché... piace così, insegnate a insegnare a tua figlia come si fa a farsi una pippa. Andiamo, dai, su, cioè. No, no, non come farsi una pippa, no, assolutamente no. Però nel caso in cui dovesse succedere, come magari a me è successo quando ero piccolina, che l'ho vista fare una. Diciamo una tippa da una persona davanti alla scuola ed ero piccola e non sapevo neanche che cosa stesse facendo perché allora comunque lo vai a chiedere appunto, a tua madre, a tuo padre, ma non è quello il problema, ragazzi. Così ho fatto. Nelle scuole tutte le famiglie sono disposte e sono aperte a parlare di queste cose, un po' per imbarazzo, un po' perché comunque ma la soluzione non è mettere dei non corsi. Non è una soluzione, anzi ti dirò di più, secondo me addirittura in questa ora o quello che sia dedicata all'educazione sessuale, a parte parlare proprio del sesso in sé per sé, non o c'è anche bisogno di fare educazione sessuale e omosessuali, anche il fatto della pedofilia. Quindi insegnare ai bambini a vedere dov'è il pericolo. Pure la pedofilia bisogna insegnare. Sì, che certo, cos'è e certo. Cosa non è. Certo, perché oggi come oggi se ne parla tanto di pedofilia. Vabbè, però magari non è detto che tutti lo sappiano. Vabbè, ciao. Andrea da Roma, dai. Ciao, buonasera. Dimmi. Senti, io volevo intervenire perché facevo riflettivo su quelle che erano le tue parole sul discorso della sessualità. E io poi mi ci sono ritrovato perché sono cresciuto in mezzo alla strada, nel senso che la sessualità l'ho scoperta crescendo e mia madre, nonostante fosse una professoressa, mio padre che era un professore, non me ne hanno mai parlato, anzi non parlavo più con i miei fratelli eccetera. L'unica differenza Cruciani che trovo è che probabilmente oggi questi ragazzini, perché io ho due figli, uno di 10 anni e uno di 7 anni, ma non tanto quelli di 7 anni ma quanto la bambina di 10 anni subiscono un bombardamento molto più forte rispetto a quello che abbiamo avuto, no, che ho passato io, che forse avete allora? Passato voi. E questo è un pochettino, mi mette un pochettino di timore, no? Nel senso di non essere poi in grado io di saper recepire al punto giusto. Al ma sai che non ho, non ho capito. Allora, la mia paura è quella che rispetto alla mia crescita sessuale. Alla tua crescita ragazzi, sessuale, la crescita sessuale dei tuoi figli? No, rispetto alla mia, dico, i miei figli oggi. La mia paura da padre, diciamo, sotto questo qual è quella di non riuscire a comprendere tutte le informazioni che a loro gli arrivano e che io quando ero piccolo non ho mai ricevuto, e parliamo di YouPorn eccetera, che da ragazzino non avevamo. Tanto fanno da soli, non ti preoccupare, non c'è bisogno né di te né dei bravo, questo hai detto per vabbè, purtroppo la vita è fatta di pericoli. Alessandro da Milano, dai. Alessandro, pronto, dimmi. Ciao, scusa Giuseppe, devo dirti che se, proprio devo darti una brutta notizia. Non capisci niente. Bene, ottimo, ottimo. No, non capisci niente, ma perché? Perché l'educazione, che sia l'educazione sessuale, qualunque tipo di educazione, non può essere impartita dai genitori. I genitori non parte sono che in parte, preparati. In parte anche non così. Sono preparati. Ah, poi io non capisco niente. Tu generalizzi così invece che sei tu che hai capito tutto. Invece no, tu hai capito tutto. I genitori non sono preparati. No, non sono preparati. Ha generalizzato lui. Allora, io sai cosa ma è un diritto non essere preparati. È un diritto non essere preparati anche. È un diritto non insegnare nulla. Per la società. Ma, perché i figli che vai girano per le nostre sociale, città, siamo al socialismo, la gente che non è preparata, sì. Non sono educati, siamo alla società, alla società dei migliori, siccome i genitori non sono preparati facciamo intervenire i professori, ma che siamo al socialismo reale, ma dai su, dai, ci sentiamo a lunedì 18:30, ciao. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.